È marzo, giovedì 1 marzo. Eccoci qua, una carrellata intanto dei titoli. Praticamente tutti i quotidiani aprono sulla TAV e sulla situazione di ordine pubblico. Il Sole 24 Ore invece apre su BCE, 530 miliardi alle banche, spread BTP Bund sotto 340. Tra l'altro vi ricordo che oggi con il Sole 24 Ore c'è il dizionario dei professionisti, oggi è il Professional Day, e quindi cosa cambia con le liberalizzazioni, ma poi lo vedremo più avanti, tutti i dettagli sul Sole. E poi appunto la vicenda della Val di Susa su tutti i quotidiani. Corriere della Sera, blocchi e barricate, l'assalto dei Notav, Repubblica, Val Susa un giorno di fuoco. La Stampa, Tav, isolate gli estremisti, un'intervista al ministro Cancellieri. Il Fatto Quotidiano, la guerra del Tav per l'appalto da 20 miliardi. Il Giornale, minacce e violenze, cercano la guerra. Libero, Monti, pecorella della TAV. Il Manifesto invece c'è una foto di Alberto Perino, leader della TAV, trascinato via dalla polizia. Il titolo è Pulizia. La Val Susa un caso politico, scrive il Manifesto. Insomma, vedete i titoli tutto su questo. L'Unità nel tunnel, battaglia in Val di Susa. Il Messaggero, Monti, così cambio il fisco, invece l'apertura sul Premier. C'è da dire che poi tutti i titoli sono corredati da foto emblematiche, no? Di fiamme alte, scontri. Insomma, ieri nello sgombero dell'autostrada c'è stato un po' di casino, diciamo così, e di violenza. Allora, intanto però le segnalazioni da cui voglio partire, la prima è questa: ce la faranno, non ce la faranno, non si sa. Noi certo ogni giorno cercherò di darvi conto di questa vicenda, il tetto ai manager di Stato. Allora, si è pronunciata ieri la Commissione Affari Costituzionali della Camera a dire che il tetto si può mettere da subito. Il tetto di 295.000 euro ai manager pubblici, e molti lo sforano questo tetto. Il tetto ai manager senza sconti. Così titola pagina 21 Il Sole 24 Ore, Eugenio Bruno. Leggiamo allora: il tetto agli stipendi dei dirigenti pubblici ha superato quasi indenne le forche caudine del Parlamento. Le commissioni lavoro e affari costituzionali hanno dato il via libera al decreto che fissa 294.000 euro la soglia massima delle retribuzioni delle pubbliche amministrazioni statali, confermando l'applicabilità ai contratti in corso e riservando al governo la facoltà di disporre le eventuali deroghe. Come deroghe? Ebbene sì, cari ascoltatori, le eventuali deroghe, cioè il governo potrà disporre le deroghe. Allora, il ministro della pubblica amministrazione, Patroni Griffi, dice: andremo fino in fondo, tireremo dritto. Sta di fatto che su questa parola deroghe il Secolo XIX, a pagina 2, si dimostra più pessimista. Si potrebbe fare un quiz: secondo voi ci saranno delle deroghe oppure no? Il Secolo XIX, a pagina 2, è sicuro. Tetto agli stipendi d'oro? C'è il trucco della deroga. Il governo, in alcuni casi, potrà confermare i maxi emolumenti, e sono già polemiche. Il Fatto Quotidiano è ancora più scettico. Il manager salva il tetto. La Camera ripassa la palla al governo su questo tema delle deroghe. Staremo a vedere. Sta di fatto che la Camera ha detto si può applicare il tetto subito e dunque il governo può farlo, ma ci sono, a meno che ci siano delle deroghe. Staremo a controllare se ci saranno le deroghe. A proposito di notizie della casta, voglio rimanere sul Secolo XIX perché tra l'altro pubblica anche l'audio sul sito internet, se volete andarla a vedere. A pagina 5 c'è il racconto e il resoconto di quello che è successo all'interno di una commissione comunale nel comune di Savona. Qui non si guadagna, convoca più sedute. Questo il consigliere socialista, di fatto Marco Pozzo, ha detto al presidente della commissione. Si è avvicinato arrabbiato perché è stata fissata una sola seduta e non due, e si guadagna a gettone, si parla di 75 euro a gettone. Quindi il capogruppo in commissione Marco Pozzo del Partito Socialista, appunto, si è avvicinato al presidente di commissione e gli ha detto: perché non ne convochi due? Convocane di più, d'altronde non guadagniamo un cazzo. E tutto l'audio è registrato, è stato registrato dai grillini che l'hanno messo online. Devi fare più commissioni col presidente di commissione. Dice: ma qua ne chiedono una al mese, me le invento io se vuoi le commissioni, bisogna guadagnare di più. Ecco, convoca più sedute, qui non si guadagna. Potete leggere la storia simpatica a pagina 5 del secolo XIX. C'è tempo anche per questa? Sì, la do da libero, perché pare che nel Trevigiano il nome di questo ex parlamentare, anche ex senatore, che Libero non cita, sia sulle bocche un po' di tutti, ironicamente. Ex onorevole fermato con un trans. Mi ero perso. Questa la spiegazione. Nel Trevigiano, sulla statale del sesso, sorpreso con un bello di notte, racconta Alessandro Gonzato su Libero. E lui dice: chiedevo informazioni. Si sa solo che è un ex parlamentare del Popolo della Libertà, questo almeno da Libero. Ma Libero dice in realtà nel nome, nella zona, nel Trevigiano, lo sanno un po' tutti. Sta di fatto, giura di essere capitato lì per sbaglio, di aver abbassato il finestrino, di essersi fermato a parlare con un trans in piena notte a meno 5 gradi per chiedere un'informazione stradale. Mi ero perso. Mi scusi, signorina, mi può dare una mano? Sta di fatto che, a parte che era un signorino e non una signorina, ma è stato multato con 500 euro perché c'è una ordinanza del comune di Spresiano che persegue una dura battaglia contro la prostituzione. Lui, accomunato subito all'onorevole Sirkan, ex portavoce di Prodi da Libero, dopo aver contestato la contravvenzione, ha dato mandato al suo legale di fare ricorso. Avesse pagato la multa, forse sarebbe tutto finito così, nel silenzio. Invece lui ha fatto ricorso, perché dice: io ero lì per chiedere informazioni. Sta di fatto che, come scrive Libero, nel Trevigiano e dintorni il suo nome è sulla bocca di tutti, perché tutti sanno e ci ridacchiano sopra la storiella dell'ex parlamentare che di notte, 5 gradi sotto zero, chiede a un trans di fargli ritrovare la via smarrita. 24 mattino. Le 7:33 minuti, anzi 34 minuti in questo istante. Eccoci, continuiamo la lettura dei giornali e ci dobbiamo concentrare sul tema che prende maggior spazio, no? Quello della Valsusa, di cosa sta succedendo. Ieri un'altra giornata di estrema tensione, con scontri con la polizia e le forze dell'ordine che hanno sgomberato l'autostrada che da tempo era occupata, e ci sono, e troverete foto ovunque, di scontri e tensioni. Poi è da un po' di giorni che iniziano a moltiplicarsi le aggressioni ai giornalisti. Per carità, non lo si fa per una difesa della categoria, ma insomma i giornalisti sono lì a raccontare, a fare il loro lavoro. E oggi tra l'altro il presidente della Federazione Nazionale della Stampa, il sindacato, Roberto Natale, fa un intervento sull'Unità in prima pagina a dire: ora basta. Si continuano a moltiplicare le aggressioni all'informazione. Ieri l'aggressione più brutale è stata ad alcuni operatori di H24, questa agenzia che lavora per il sito del Corriere.it, che fate qui poi un pugno, così siamo stati aggrediti. A pagina 3 c'è il resoconto di questa aggressione, sono stati fermati. Guardate, c'è la Digos, ci stanno ascoltando coi microfoni direzionali. È iniziata così, con un grosso, gigantesco equivoco. Sono andati lì una quarantina di persone, li hanno accerchiati, hanno trovato poi nel bagagliaio un lampeggiante blu. E nonostante quindi la difesa, siamo di un'agenzia televisiva, basta, sono stati scambiati per agenti della Digos. Spintoni, intimidazioni, un pugno in faccia a uno dei tre, si sono fatti consegnare le carte d'identità, due telefonini, le chiavi del pick-up bianco, hanno sgonfiato le ruote dello stesso pick-up. I tre giornalisti sono riusciti a scappare sull'altra auto e poi hanno detto ovviamente: non metteremo più piede. A questo punto è intervenuto Alberto Perino, il leader dei Notav, che ha restituito il materiale dicendo: È stato un equivoco, ma voi avete sbagliato. Non potevate stare lì e perché avevate il lampeggiante in auto? Ecco, questo Alberto Perino dei notava. Sta di fatto che la preoccupazione anche sulla stampa, pagina 3, è questa, è una svolta molto radicale, almeno questo appare, i cronisti finiscono nel mirino, servi, siete come gli sbirri. Queste sono le parole che molti giornalisti inviati sul luogo si sentono dire. Ora comandano gli anarchici, questo è l'allarme lanciato a pagina 3 della stampa, e questo allarme viene ribadito anche dal ministro Anna Maria Cancellieri, ministro dell'Interno, che fa due interviste oggi a Repubblica e a La Stampa. A Repubblica, pagina 3, intervistata da Liana Milella, dice la Cancellieri, parla anche del militare, no? Tra poco ci arriveremo, quello del militare apostrofato con Pecorella, ma anche con insulti ben peggiori. Dice, è stato bravissimo, encomiabile, non ha reagito, ha telefonato al comandante generale dell'arma Gallitelli per fargli complimenti, se avesse reagito si sarebbero innescate violenze su violenze, mi è tornata in mente la famosa descrizione di Pasolini. E riguardo alla richiesta di Maroni di mandare l'esercito, dice la Cancellieri, sono ipotesi tecniche che saranno valutate da chi ha la responsabilità dell'ordine pubblico. Personalmente ritengo che lì le forze dell'ordine siano in grado di svolgere il loro compito. Sull'incidente, la fatalità di Luca Bà, basta guardare i filmati, la magistratura darà il suo giudizio, ma da cittadina li guardo e la mia opinione è che la polizia non c'entra niente, assolutamente. Lasciamo l'ultima parola a chi valuterà i documenti, ma a me le immagini paiono chiarissime. Naturalmente c'è chi la pensa in modo opposto, ma io non ho alcun dubbio. E sulla TAV dice bisogna andare avanti, lo ribadisce anche nell'intervista invece alla Stampa, quindi vado sulla Stampa, l'intervista a Guido Ruotolo che trovate a pagina 5, il ministro dell'Interno Cancellieri invita i sindaci a fermarsi, dovete isolare le spinte estremiste. E sulla TAV e sulla richiesta di un blocco dei lavori dice la Cancellieri, che credibilità potremmo avere a livello internazionale se rimettessimo in discussione un progetto europeo di collegamento ferroviario di alta velocità che già ci viene in forte ritardo nella realizzazione del segmento italiano? Se lo facessimo, quale opinione avrebbero di noi le istituzioni finanziarie e politiche della Comunità Europea? Dunque la Cancellieri dice anche una questione di credibilità, non possiamo più fermarci a questo punto dopo aver preso tutti gli impegni del caso. Riguardo appunto a quel filmato in cui c'è un militante notav, Marco Bruno, si qualifica lui stesso con le telecamere che lo riprendono, di Giaveno, che insulta un carabiniere che rimane impassibile per numerosi secondi. Intanto bisogna dire che questo Marco Bruno è stato ieri fermato. Ieri è finito, per esempio, è in prima pagina del quotidiano nazionale, lo vedete in foto strattonato a terra dalla polizia, è finito ancora negli scontri ed è stato fermato. Ha una serie di precedenti penali, comunque una fedina penale non indifferente, la trovate credo sul giornale, varie resistenze a pubblici ufficiali, possesso varie volte di materiale tipo spranghe, cose così. Ha 28 anni, è un operaio, sai che c'è, dice a Repubblica, rilascio interviste solo a pagamento. Fa l'operaio e pare che fosse in pausa pranzo quando è andato lì al blocco dell'autostrada per sfogarsi un po' con questo carabiniere. Il carabiniere invece chi è? Carlo Bonini lo intervista su Repubblica, qualche frase, ovviamente non viene detta la sua identità. Si sa che ha 25 anni, è della provincia di Oristano, è figlio di operai, sono cresciuto in un paese di operai, ha un fratello, una licenza liceale scientifica, non ho partecipato a missioni all'estero, ho deciso di fare il carabiniere. Sono arrivato nel battaglione da cui non mi sono più mosso e dove sto bene. Parla di mestiere, di lavoro, perché in fondo spiega è sinonimo di dovere. È stato chiamato ieri dal comandante generale dell'arma per l'encomio solenne. Mi sono sentito emozionato, ma l'ho detto anche al mio comandante, ho fatto solo il mio dovere. Il dovere per me è fare bene il mio lavoro. E alla frase, no, sapete che c'era anche questa frase in cui questo notav gli diceva: dai bacini alla tua ragazza con quella maschera, la maschera antigas, così non gli attacchi le malattie. Lui ovviamente un po' ironizza: veramente non ho una moglie, neanche una ragazza, ma è lo stesso, mi hanno dato varie volte dello stronzo, stronzo in divisa, me lo daranno ancora, ma io non devo rispondere alle provocazioni, non mi importa. E poi conclude così questa intervista a Carlo Bonini: l'altra mattina sull'autostrada, insomma, tutte le volte che ho visto questi ragazzi che hanno la mia età, ho pensato che è importante che ognuno abbia il diritto di dire quello che pensa, giusto o sbagliato che sia, purché lo faccia senza violenza, e poi ognuno di noi saprà giudicare, o no? Insomma, questo è il carabiniere che è stato insultato e è rimasto impassibile. Tra l'altro, invece, voglio segnalare anche un'intervista a Vendola, ecco. Intervista a Vendola, la vorrei leggere quasi tutta integrale, no? La pubblica il Messaggero, lo intervista Mario Aiello, la trovate a pagina 11. Allora, il titolo è "Orribili quelle offese al carabiniere", ma sentite le risposte di Vendola, sempre in vendolese, no? Cioè mai una risposta di tre parole, no? Presidente Vendola, lei con chi sta? Con i notav o i carabinieri? Sto con le ragioni del dissenso. Ogni volta che viene espresso in forme civili, pacifiche e democratiche, la non violenza è la mia precondizione per schierarsi. Perché non dice basta con il teppismo? Ci penserò. Nel nostro DNA c'è il diritto all'esercizio del conflitto, ma contemporaneamente anche l'umanizzazione del conflitto. Non dobbiamo dimenticare che per un intero popolo di quei territori la violenza è rappresentata dal grande buco della TAV. Si tratta di provocatori, chiede Mario Aiello. Non voglio dare definizioni. La violenza ci toglie il fiato. Cioè, non risponde mai direttamente. Senta, ma quel video del carabiniere offeso cosa ne pensa? L'ho trovato orribile. Cosa avrebbe detto a quel ragazzo se fosse stato accanto a lui, quel ragazzo che lo offendeva? Gli avrei detto: noi sulle nostre battaglie dobbiamo creare alleanze e consenso. Tu perché combatti? Combatti per vincere e per cambiare? O ci basta la manifestazione del nostro antagonismo? Ma lei, chiede Mario Aiello, prova a incalzarlo, è equidistante? Crede forse che il tasso di violenza dei notav e delle forze dell'ordine sia uguale? Queste domande non le capisco, risponde Vendola. È come se lei mi chiedesse: è più violento il buco dell'ozono o uno schiaffo in faccia a una persona? E glielo chiedo invece: tutti gli argini tra quella che lei chiama le buone ragioni della protesta e le cattive azioni dei, dei violenti sono state messe? Non ne servirebbero di più? Non sono stato in Val di Susa, non azzardo giudizi. Per me è molto importante offrire la possibilità ai popoli di quei territori di esprimere le loro posizioni. Serve una moratoria sulla TAV. Ecco, questo è il punto, l'unico, diciamo, cosa diretta che dice Vendola all'intervista. Serve una moratoria sui lavori della TAV. Il Manifesto invece ha una visione un po' diversa. Avremo Valentino Parlato, fondatore del Manifesto. Il titolo di prima pagina è "Pulizia", con Alberto Perino che viene trascinato via urlante da tre agenti della polizia. La Valsusa diventa un caso politico, la politica prova a isolare il movimento, il leader Alberto Perino trascinato via dalla polizia, tre auto di attivisti notav misteriosamente bruciate, caccia all'uomo nella notte, arresti e feriti. Insomma, il Manifesto, infatti firma anche un editoriale con Pierluigi Sullo, "Dalla parte del torto", mette in linea tutti e coloro che sono contro il movimento. Ormai la senatrice Finocchiaro che vorrebbe stringere la mano al carabiniere insultato, lo stesso milite che riceve un encomio, una troupe di Corriere TV aggredita, il sito di Repubblica "Costa le cose", insinuazione "è stata una vendetta". L'altro grosso titolo di Repubblica riguarda gli insulti di Alberto Perino, no? Che ha detto a Cruciani, a Parenzo, della Zanzara: siete delle merde, degli sciacalli. La ministra Cancellieri che annuncia fermezza inflessibile. Insomma, tutto così. Una tale unanimità, scrive il Manifesto, si è forse vista nella storia italiana alla vigilia del 24 maggio 1915, quando il Piave mormorò. Insomma, il Manifesto va, come spesso fa, controcorrente. E allora, per parlare di altre cose che troviamo sui giornali, intanto sul Sole 24 Ore, pagina 3, troverete tutti i dettagli della nuova maxi asta delle banche, che hanno recuperato liquidità all'1%, tasso molto agevolato. Queste sono le regole della Banca Centrale Europea. A 800 banche sono state erogati 529,5 miliardi di euro dalla Banca Centrale Europea. Di questa, una fetta di 139 miliardi sono finite nelle casse di degli istituti di credito italiani, soprattutto Intesa San Paolo, che è stata la più attiva, ha prelevato 24 miliardi di euro, il 4,5% del totale. Unicredit invece si è limitata a chiedere 5-10 miliardi di euro. La domanda ovviamente che il Sole 24 Ore si pone è: che succederà di questi soldi? Aiuteranno davvero alla ripresa dell'economia reale? Andranno alle imprese? Andranno alle famiglie? Serviranno per gli istituti di credito per evitare il cosiddetto credit crunch? Vedremo, insomma, tutti i dettagli di questo salvagente della Banca Centrale Europea li trovate a pagina 3. Come invece a pagina 8 trovate i dettagli del decreto liberalizzazioni. Siamo alle battute conclusive. Lo schema è sempre quello. Ci sono 1700 emendamenti per tentare di bloccare, modificare tutto quel mosaico molto complesso che è uscito dalla Commissione Industria, e oggi al 99% il governo porrà la fiducia, il che vorrà dire spazzare via tutti i 1700 emendamenti, e entro questa sera dovrebbe arrivare il voto al Senato e poi il voto alla Camera. È il decreto i cui dettagli li trovate appunto a pagina 8 del Sole, ma comunque ne abbiamo parlato in questi giorni, che riguardano i taxi, le farmacie, i professionisti, i servizi pubblici locali, l'IMU per la Chiesa o l'ICI, i mutui, le assicurazioni. È un provvedimento molto molto ampio. Riguarda anche i taxi. Cito i taxi perché c'è una spettacolare intervista, fa sempre delle interviste spettacolari, devo dire, sia l'autore Fabrizio Roncone sul Corriere della Sera, e sia in questo caso l'intervistato, è stato anche nostro ospite, Loreno Bittarelli, torna leader di uno dei leader del Radio Taxi 3570 a Roma. Loreno Bittarelli, eccolo qua, intervistato a pagina 11 del Corriere, vi invito alla lettura. Aiutati da Gasparri, il governo era su una strada rischiosa, dice: abbiamo vinto su tutta la linea ancora una volta, il governo è stato bravo a capire che aveva imboccato una strada sbagliata e rischiosa. Rischiosa, scusi, in che senso? Chiede Roncone a Bittarelli. Beh, insomma, per 20 giorni si sono rifiutati di riceverci. No, dico, e che, decidete da soli? E che si fa così? E che modo è? Allora ci siamo un po' arrabbiati, avete lanciato delle bombe carta. Io c'ero, dice Roncone del Corriere, avete lanciato delle bombe carta a Palazzo Chigi. Vabbè, gli animi si erano un po' surriscaldati. Dai, ma alla fine non abbiamo fatto male a nessuno. E ridacchia Bittarelli. Beh, nel 2007 tiraste fuori di peso dalla sua auto Fabio Mussi, all'epoca ministro, lo prendeste a ceffoni. Ma no, solo qualche ceffone alla macchina, dai, ma ceffoni no, non mi sembra. Però, mi scusi Bittarelli, l'altro leader sindacale protagonista della trattativa con voi è Pietro Marinelli dell'UGL Taxi, che ha lo stemma della decima MAS tatuato sul braccio. E beh, che colpa è mia se Marinelli si è fatto quel tatuaggio? Io sono sempre contro gli estremismi, anche se certo non nego di avere un orientamento politico preciso. Io sono di centrodestra, scandisce Bittarelli, che poi fa nomi e cognomi. Senta, ma chi vi ha aiutato? Beh, Maurizio Gasparri, il capogruppo al Senato del PDL. Il suo lavoro è stato commovente. Si è battuto come un leone, roba da nominarlo tassista onorario. Ah, e oltre a Gasparri, beh, la senatrice del PDL Vicari, una delle relatrici in commissione, il senatore Augello, il sindaco Alemanno, che è pure amico mio. Ma anche a sinistra, Stefano Fassina del PD. Non ci credo, dice Roncone. Eh sì, e invece deve. E anche il senatore Bubbico, che è l'altro relatore, pure lui del PD. Sì, sì, è andata veramente bene. Così conclude l'intervista ridacchiando Bittarelli. È andata benissimo. E va bene, non so se pensava a a questa intervista, no, perché l'ha fatta prima e non poteva saperlo, Mario Monti, il premier, che ha fatto un'intervista invece a Bloomberg, che trovate tutta tradotta su Repubblica, pagina 9, e che dice: renderò l'Italia meno bizantina e se farò bene il mio lavoro sarà improbabile un mio secondo mandato. Improbabile, però, l'ha detto, non impossibile, improbabile. Qualche giorno fa la Bocconi aveva detto: tornerò qua. Due segnalazioni veloci per concludere. Continua sempre sul Messaggero e Repubblica. Repubblica ha tirata fuori questa vicenda, la vicenda della presunta cupola di polizia municipale e di racket, delle estorsioni ai commercianti a Roma. Parla un vigile pentito del racket a Roma, racconta pagina 20 di Repubblica come estorcevano denaro ai commercianti, cominciava a chiedere riscontri di tutti i lavori, cacciavo il regolamento comunale, lo facevo vedere, norme che sono centinaia, impossibile non ci sia qualcosa fuori posto, il negoziante vuole aprire presto al minor costo possibile, e gli dicevo: beh, la voglio aiutare, lei è fortunato che sono venuto io, ci sono colleghi che non danno scampo, non le faccio il verbale ma si deve mettere in regola, e via. Partiva subito in questo modo la mazzetta. Così a Roma prendiamo le mazzette. Un negoziante dice 1000 multe per convincerci a pagare. Insomma, è uno scandalo che rischia davvero di ingigantirsi ogni giorno di più. Infine, una intervista e anche un'opinione del ministro Riccardi, che dice: i giochi d'azzardo sono come il fumo, basta la pubblicità. Un'intervista ad Avvenire, il ministro Riccardi a pagina 12 dice: il gioco d'azzardo, che rovina famiglie, rovina persone, deve essere considerato nocivo come il fumo, anche se lo Stato ci guadagna moltissimi soldi, dobbiamo vietare la pubblicità del gioco d'azzardo. Questo è un tema che c'è su tutti i giornali. Giochi, record incassi, supera la lotta a 68 milioni anche sul Messaggero e sulla Stampa. Ora vietiamo gli spot per il gioco d'azzardo. Che ne pensate? Anche interessante come proposta su cui discutere, non è escluso che non lo faremo. Ora il giornale radio.